Salva Danaio di Deborah Rosciani. Ritrovati a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani. Oggi ritorniamo su un tema affrontato in una puntata di Salva Danaio a metà ottobre, perché abbiamo una novità, la novità che aspettavamo in quei giorni e che invece è arrivata giovedì scorso. Cosa è successo? È successo che al TAR del Lazio pendeva il ricorso che le banche italiane avevano presentato contro l'ISVAP, l'organismo di controllo del settore assicurativo, contro un regolamento emanato dall'ISVAP stesso che diceva in parole semplici alle banche di non vendere polizze legate a mutui e prestiti. Questo regolamento avrebbe dovuto peraltro entrare in vigore, sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1 dicembre. Perché? Perché queste operazioni vengono svolte in una situazione di conflitto di interessi, perché le banche vendono polizze di cui sono direttamente beneficiarie, ne incassano le commissioni di vendita e insomma per tutto questo motivo l'ISVAP aveva emanato appunto questo regolamento. Cosa è successo? Che il TAR ha detto sì, il ricorso può anche essere giusto nel principio, ma prima di emanarlo, ha detto all'ISVAP, dovevate fare una consultazione con tutti i soggetti interessati alla questione. Per questo vizio di forma, per questo problema procedurale, il TAR ha accolto appunto il ricorso del sistema bancario. Cosa cambia nella sostanza per i cittadini, per chi sottoscrive mutui e si ritrova a dover sottoscrivere anche queste polizze appunto proposte dalle banche che intendono evidentemente tutelarsi qualora al sottoscrittore del mutuo capiti qualcosa? Stamattina cercheremo di capirlo con i nostri interlocutori. Abbiamo di nuovo riconvolto a Salva Danaio la nostra Federica Pezzatti, Plus 24, Il Sole 24 Ore. Federica, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti. E mentre l'altra volta abbiamo interamente realizzato la trasmissione con l'ISVAP, che ci aveva indicato le motivazioni per cui appunto questo regolamento era stato emanato e ci aveva anche spiegato appunto come mai poi le banche si erano opposte presentando il ricorso al TAR del Lazio, stamattina abbiamo invece le banche, con lui il dottor Alessandro Messina, responsabile settore crediti dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Dottor Messina, buongiorno. Buongiorno. 800240024, numero verde per le domande degli ascoltatori, 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi. Prima di raccontarvi la borsa, prima di partire con la chiacchierata con Federica e con il dottor Messina, sentirei subito un'ascoltatrice che si è già prenotata, perché davvero il caso di Luana da Bergamo l'abbiamo subito preso a spunto. Luana è proprio il caso che in realtà ha dato origine a tutto questo conflitto fra sistema bancario e regolatore del sistema assicurativo. Luana, buongiorno e grazie di averci chiamato così tempestivamente. Buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo appunto chiedere questo. Io ho sottoscritto nel 2004 un mutuo per l'acquisto della casa e poi successivamente, alcuni mesi dopo, l'ho coperto con l'assicurazione, quella per caso morte, caso invalidità, ecco. Successivamente, quando sono appunto cresciuti i tassi di interesse, volevo avvalermi della portabilità del mutuo, che sembrava essere in voga in quel periodo, e invece ho scoperto che portando il mutuo in un'altra banca avrei perso la copertura assicurativa. Perché aveva pagato tutto interamente il premio in un'unica soluzione, Luana? No, io il premio è stato pagato tutto in un'unica soluzione, erano ben 5.000 euro, quindi ecco, non era neanche una cosa certo, così, ma anche se fossero stati 200 euro, insomma, perché perdere anche questo? Ecco, siccome era una cifra notevole che avevo pagato, mi seccava perdere la copertura assicurativa e l'ho lasciato lì dove era. Successivamente sono andata un pochino a vedere le clausolette, quelle scritte piccoline, secondate, eccetera, e in effetti c'era scritto che se io avessi spostato il mutuo da lì per andare in un'altra banca, avrei perso questa copertura assicurativa, che però la compagnia assicurativa non è una compagnia della banca, quindi io non capisco come mai, se io ho pagato un prodotto, poi lo devo perdere, cioè io copro la mia cifra. Infatti, quindi come ha risolto la questione Luana? Intanto la portabilità l'ha fatta? Sono rimasta lì, ecco. Sono rimasta lì per forza. Allora, la ringrazio, siamo stati fortunati stamattina, perché non appena ho lanciato la trasmissione abbiamo subito intercettato un caso che rappresentava pienamente il conflitto appunto di cui vogliamo parlare questa mattina, che ancora non si è risolto, perché adesso è tutto congelato, ovviamente questo regolamento dell'ISVAP che vieta alle banche di vendere queste polizze è congelato, non entra in vigore un bel niente, però io tra l'altro adesso sono anche indecisa se mandare in onda la scheda o meno, la questione l'abbiamo rispiegata. Federica, effettivamente tutto questo problema è emerso proprio quando sono state emesse le nuove opportunità legate alle liberalizzazioni di Bersani, quindi la portabilità, la portabilità del mutuo, che non era possibile perché ha rotto questo giocattolo che portava parecchi denari nelle casse anche delle banche, principalmente proprio perché loro fungono tuttora da intermediario che incassa una lauta provvigione proprio sulla vendita di queste polizze di cui è beneficiaria la banca. Quindi magari il suggerimento che si può dare all'ascoltatrice è quello, comunque potrebbe pensare di rinegoziare il mutuo, visto senza cambiare contratto, rinegoziare con la stessa banca potrebbe permetterle magari di risparmiare, di ottenere un tasso più agevolato, e nello stesso tempo c'è la copertura perché tanto non cambia banca, quindi rimanendo lì dovrebbe magari informarsi, certo, su questa possibilità. Il problema è che lei aveva bisogno di rinegoziare in un momento molto più complicato, magari adesso i tassi sono abbassati, sarà più tranquilla, però tu scopri un problema quando hai bisogno appunto di doverlo risolvere, e lì, certo, dice lei, forse chiaramente anche noi abbiamo un problema che non guardiamo le clausole dei contratti, perché però certo. Quanto al regolamento, poi dobbiamo anche dire che è stato cassato l'articolo 52, che era quello che prevedeva prevedeva il divieto del conflitto di interessi, quindi sostanzialmente vietava che la banca fungesse da beneficiario e da intermediario nello stesso momento, mentre il regolamento, che io sappia, dovrebbe entrare in vigore, perché poi ricordiamoci che questo regolamento è molto importante anche per una serie di altre peculiarità. Introduce più trasparenza, nuovi obblighi, ad esempio per le polizze malattia non potranno più le compagnie recedere in corso di contratto, perché capitava anche questo, bisogna ricordarlo, che magari c'era una polizza malattia, la persona si ammalava gravemente e le compagnie potevano recedere durante il contratto, quindi questa cosa qui non è più possibile farla. Ecco, è un regolamento molto articolato e molto vantaggioso per i consumatori. Purtroppo c'è stato questo blitz, diciamo, dell'ultima ora che ha inserito questo articolo. Purtroppo diciamo che anche la norma che ha deciso in maniera abbastanza forte l'ISVAP è una norma che voleva risolvere un problema oggettivo che c'è. Queste polizze costano molto, tra l'altro, come ricordava anche la rappresentante dell'ISVAP, essendo polizze sostanzialmente collettive dovrebbero costare molto meno anche alle compagnie rispetto a delle polizze fatte su una testa sola, no? Delle temporanee caso morte, ad esempio, se le spalmi su un grosso numero di contraenti dovresti avere dei costi ridotti, e quindi per il principio della mutualità, quindi sono prodotti che oggettivamente erano un po' molto convenienti per la banca e per i risparmiatori, sono necessari, quindi è bene che continuino a essere venduti. C'è questo problema contingente che infatti va risolto, lo ricordava peraltro anche il collega Riccardo Sabatini, che ha seguito questa vicenda sulle pagine del Sole 24 Ore venerdì scorso. L'autorità era intervenuta dopo aver accertato l'elevato ammontare degli oneri che gravano sui sottoscrittori delle polizze e dei mutui, in media oltre il 50% dei premi pagati che sono retrocessi a favore della rete bancaria che colloca i prodotti. Dottor Messina, ne abbiamo messe insieme a sufficienza di cose per consentire appunto al sistema bancario di replicare. Di fatto questo round va a voi, perché avete appunto mosso quale tipo di osservazione, magari ce lo spieghi, al TAR del Lazio per mettervi di traverso rispetto a questo regolamento ISVAP, nella fattispecie all'articolo 52 del regolamento 35. La sostanza era che nessuno vi aveva interpellato, e magari se l'ISVAP l'avesse fatto prima voi avreste potuto rafforzare un codice di autoregolamentazione che sulla materia peraltro già c'era, ma che non aveva funzionato, perché questo va anche detto, non trova? Non è proprio così. Allora, diciamo, ciò che ha detto il TAR è che nel metodo, non nel merito, sul merito non si è pronunciato, ma nel metodo, diciamo così, non era adeguato il comportamento dell'ISVAP, perché non è stato avviato il processo di consultazione previsto dalla cosiddetta legge sul risparmio, che è un processo che va fatto non per pura formalità, ma perché serve a garantire che i processi di normazione, di regolamentazione siano pertinenti, coerenti con quella che poi sono le prassi del mercato, con le complessità di procedure che coinvolgono centinaia di migliaia di operatori e di milioni di clienti. Ora, al di là di questo, quindi, che è un tema, come dire, diciamo così, di organizzazione, per cui l'ISVAP è liberissima nel merito di tornare su questa materia, perché su questo nessun tribunale l'ha stoppata, noi poniamo un problema anzi diversi problemi. Allora, diciamo così, innanzitutto un tema importante è quello dei prodotti assicurativi per il sostegno dell'accesso al credito a determinate fasce di famiglie, di soggetti, eccetera. Teniamo conto che una simile previsione normativa di impossibilità di vendita contestuale sarebbe l'unico caso in Europa, nel senso che tutti gli altri paesi europei questa cosa non solo è possibile ma è normale, e noi siamo un paese altamente sottoassicurato da questo punto di vista, cioè da noi comunque la popolazione che ha una polizza in generale, ma anche su questi prodotti, è ancora molto bassa. Beh, anche la dottoressa Mazzarella, che è un dirigente dell'ISVAP che era con noi in questa puntata del 14 ottobre che abbiamo citato prima, l'ha ammesso con grande chiarezza comunque la necessità di allegare prodotti assicurativi per eventualmente gestire situazioni problematiche che nelle famiglie possono capitare, comunque è normale, sì. Dottor Messina, questo glielo volevo ricordare per correttezza, perché oggi noi loro non li abbiamo, quindi. No, ma certamente, ma noi sappiamo, noi vorremmo infatti su questo instaurare una dialettica assolutamente positiva, perché lei giustamente in tono giornalistico parlava di round, ma noi la viviamo più come dire, un problema da risolvere insieme, perché non crediamo che la cosa vada affrontata in modo conflittuale, anzi noi adesso vogliamo coinvolgere le autorità, devo dire a partire dalla Banca d'Italia, perché noi ci occupiamo di credito prima di tutto, prima che di assicurazioni, infatti, e vogliamo che anche su questo l'autorità di vigilanza del credito sia coinvolta nei processi di decisione. Perché? Perché vogliamo ottenere il maggior risultato per tutti. C'è un tema importante, che i casi che voi avete anche presentato, come quello della... Infatti mi piacerebbe sentire cosa ne pensa del caso di Luana, allora, perché il problema è quello, per quale motivo non si può beneficiare, cioè si è pagato un premio per una polizza... Il problema è uno, abbastanza rilevante, le banche collocano questi prodotti assicurativi e lo fanno per dare delle opportunità, e non è vero che non siano tali dal punto di vista anche commerciale per il cliente, ma ovviamente dietro ci sono delle compagnie di assicurazione. Quando bisogna fare una portabilità, quindi spostare un mutuo da una banca all'altra, non ci vuole solo il consenso della banca, ma ci vuole anche quello della compagnia di assicurazione. Noi abbiamo fatto delle linee guida insieme all'ANIA proprio per favorire questi processi di portabilità. Purtroppo devo rilevare che se voi andate anche sul sito dell'ABI, dove trovate l'elenco delle banche che aderiscono a queste linee guida e quindi che si impegnano ad applicarle, che sono ormai rappresentative di quasi tutto il mercato, non lo stesso trovate sulle compagnie assicurative. Per le compagnie, quindi insomma è lì che bisogna agire. Allora dovremmo fare si fa in due. Sì, no, stavo pensando che visto che abbiamo parlato di round, ne dovremmo fare tre e rifare questa stessa trasmissione parlando solamente con loro. Però di fatto sa com'è, dottor Messina, il mutuo noi lo sottoscriviamo davanti al direttore di banca con un notaio, e io le dico anche quello che è capitato a me in totale buona fede: ho fatto il mutuo quando salvadanaio non lo facevo, e io la polizza l'ho pagata, me la sono trovata a dover firmare quel giorno, non ero nelle condizioni emotive di alzarmi dal tavolo e dire no grazie, fatemi valutare un'offerta migliore. Questo è il tema. Che io credo che lei abbia centrato, nel senso che, lo affrontiamo dopo, devo andare in pausa, dottor Messina, ma è un tema talmente interessante che affrontiamo in maniera precisa e articolata fra qualche minuto, dopo la nostra prima pausa, tra poco. Siamo ritornati in diretta con Salvadanaio. Questa mattina stiamo... Chiedo scusa a Gaia, che non ho mandato in onda la sua scheda, ma ormai ci è abituata alle mie intemperanze in diretta. Comunque la questione l'abbiamo riassunta all'inizio. Oggi parliamo delle cosiddette polizze sui mutui, perché c'è stata questa notizia che aspettavamo a metà mese, è arrivata invece giovedì scorso, secondo la quale il TAR del Lazio ha accolto il ricorso dell'ABI contro questo articolo di un regolamento ISVAP che avrebbe voluto impedire appunto la vendita attraverso il canale bancario delle polizze sui mutui per tutta una serie di problematiche legate ai conflitti di interesse, perché le banche sono direttamente beneficiarie di queste polizze per gli elevati oneri che gravano sui sottoscrittori delle polizze sui mutui, si parla addirittura di oltre il 50% dei premi pagati, per cui l'ISVAP ha posto il riflettore su questa faccenda, però il TAR del Lazio ha detto no, voi dovevate fare tutta una consultazione prima appunto di emanare questo regolamento, per cui è stato accolto il ricorso dell'ABI e per adesso è tutto congelato. È congelato non questo regolamento, ce lo spiegava Federica Pezzatti prima, sul quale poi magari prossimamente, Federica, faremo una puntata di Salvadanaio per capire insomma sulle polizze in termini generali cosa cambia. Sono molte novità. Molte novità, però congela questo articolo. Allora noi stamattina stiamo cercando di capire a questo punto, quando come consumatori andiamo a sottoscrivere un mutuo, e lo dicevo prima col dottor Messina dell'ABI, e ci troviamo nella giornata della firma del rogito davanti al direttore della banca, perché poi è con la banca che abbiamo stipulato questo finanziamento a lunghissimo termine, e davanti ad un notaio, figuriamoci se siamo nelle condizioni di dire no al direttore che ci sottopone anche un contratto di una polizza che dovrebbe essere ovviamente uno strumento di totale tutela per noi e per la nostra famiglia, ma sono a volte anche importi grandi, 8-10 mila euro, 5 mila, ci raccontava prima l'ascoltatrice, e lì capisce che insomma la trattativa è difficile da fare, ce la impongono proprio come un obbligo, dottor Messina. Beh, io mi auguro che non sia così, perché come dire, noi ci sforziamo di analizzare i diversi modelli anche di proposta che si possono fare alla clientela, no? In generale diciamo che ci sono almeno tre tipi di offerta che una banca può fare. In alcuni casi il mutuo che avete citato voi, ma anche altri prodotti commerciali come ad esempio la cessione del quinto allo stipendio, prodotti di credito, in alcuni casi prevedono proprio l'obbligo di legge o di regolamentazione o comunque di normativa di vigilanza di collocare anche queste polizze, di coprire il rischio di credito con queste polizze. E quindi lì la banca deve essere molto trasparente nel dire che questi prodotti sono necessari per l'ottenimento del credito, lo sono in virtù di norme o regolamenti e il cliente può essere messo anche nelle condizioni di andare a cercare altrove questo prodotto, tenendo presente che poi noi supponiamo che sia difficile trovare condizioni migliori laddove la banca tendenzialmente ha una grande assicurazione alle spalle, c'è cioè il canale della banca insurance, non solo, adesso si ma chiama costruisce delle come dire, filiere commerciali tali per cui giocano su volumi alti, e quindi il singolo consumatore che va a fare lo shopping per polizze assicurative non dovrebbe trovare facilmente condizioni migliori. Se il mercato funziona, certo. Però è opportuno che lo sappia e che ne abbia la possibilità. Certo. Vuole. Ci ponevamo un altro problema, un'altra questione con Federica Pezzati, appunto prima a microfoni spenti, dottor Messina, proprio il tema della banca assicurazione. La portabilità del mutuo rende possibile il trasferimento di un mutuo, ma non della polizza. E però lei dice, insomma, questo è un problema di assicurazioni che rendono difficile appunto il cambiamento del fornitore del prodotto, chiamiamolo così. E però, diceva Federica, la banca ha la grande assicurazione alle spalle, perché quasi tutte siete organizzate adesso in questa maniera. Allora, se è possibile trasferire un mutuo, visto che, perché non è possibile trasferire anche l'assicurazione, visto che in genere si tratta del medesimo gruppo, dottor Messina, sì, detto in parole povere. Però non, scusi, sì, va benissimo, ora le rispondo. Facciamo una premessa però condivisa, che non è che è assolutamente così. Accade in alcune situazioni che ci sia questo problema che lei ha rilevato, ma succede anche ormai abbastanza. Cioè non è un problema, dovrebbe essere una peculiarità del sistema che dovrebbe rendere un po' più fluido tutto quanto. Sì, ma oggi la portabilità funziona bene, e funziona bene anche sul lato assicurazione. A volte si inceppa lì dove, come abbiamo detto, succede che magari quella compagnia assicurativa o anche quella banca, perché anche quelle banche non hanno aderito alle linee guida, diciamo così, a Biania. Allora in quel caso bisogna oliare i meccanismi, diciamo così, con interventi che a volte noi facciamo anche insieme all'Associazione dei Consumatori, proprio per fare in modo che sia le compagnie assicurative che recalcitrano, sia le banche che ancora siano in ritardo, aderiscano a queste linee guida e le applichino fino in fondo. Dottor Messina, quando un trasferimento di mutuo avviene anche un contestuale trasferimento di polizza assicurativa, in genere come avviene il trasferimento della polizza? Si restituisce il premio pagato al sottoscrittore, si trasferisce, come avviene concretamente? Questo passaggio mi sfugge. Le possibilità sono le più varie, innanzitutto dipende da come è stato, perché il premio può essere pagato in vari modi, diciamo al momento in cui si sottoscrive il contratto di mutuo, può essere l'unica soluzione, oppure può essere erogato in modo, diciamo, con la durata del piano d'ammortamento, quindi in quel caso ovviamente è molto diverso il trattamento che si farà a valle della portabilità, e poi dipende dal rapporto che c'è tra la banca e la compagnia assicuratrice all'inizio e alla fine, quindi alla seconda banca, quindi ognuna di queste strade, diciamo, porta a soluzioni diverse. Però ecco, soluzioni che ormai si trovano ordinariamente, ci ricordiamo che il 30% dei mutui in Italia ormai sono fatti con la portabilità, quindi insomma è una realtà anche operativa, non solo più normativa. Certo, non vorrei tra l'altro stressare oltremodo il dottor Messina su un ambito che non è il suo, perché il suo è il ramo bancario, non il settore assicurativo, ma in media queste polizze, Federica, perché costano così tanto? È chiaro, abbiamo visto negli ultimi anni esplodere anche gli importi medi dei mutui erogati, i valori delle case che sono esplosi a loro volta per il boom del mercato immobiliare, ma insomma parliamo a volte di 5.000 euro, diceva l'ascoltatrice, certo, ma anche di 8.000, 10.000, qualcosa in più. Ecco, dall'indagine che abbiamo fatto a suo tempo proprio nella precedente anche puntata di Salvadanaio in cui ci siamo occupati di questo caso, emergeva che se anziché stare nella banca una persona fosse uscita a cercare tra le compagnie tradizionali un prodotto analogo, noi abbiamo fatto la prova sulle temporanee caso morte, che sono quelle insomma più utilizzate per proteggere i propri cari da un eventuale evento tragico, insomma, e abbiamo visto che si poteva risparmiare anche il 50%, e guarda caso la media dei caricamenti applicati è proprio 50%, per cui chiaramente quel costo che la banca trattiene, che talvolta secondo le indagini ISVAP fatte proprio da loro arriva anche all'80%, è effettivamente un costo che va nell'attivo della banca, per cui anche per questo che probabilmente l'autority si è mossa in questa maniera abbastanza d'urgenza, perché la situazione non cambiava, rimaneva questo grosso problema lesivo dei consumatori. Su questo non ci piove, ecco, noi l'abbiamo detto in tutte le salse, però poiché è possibile slegare la propria polizza dalla compagnia, e ad esempio io l'ho fatto anche per la polizza incendio e scoppio, quindi sono uscita dalla banca e mi sono assicurata in autonomia, poi basta fare un semplice atto neanche notorio, una carta semplice, la compagnia assicurativa vincola la polizza alla banca, quindi ho dato nome della banca e loro hanno fatto tutto, per cui c'è la possibilità tecnica, e penso che buona parte degli addetti al lavoro possano farlo, tra l'altro. Quindi, allora, intanto qualche ascoltatore ci scrive, Emanuele da Roma: io sto facendo la portabilità del mio mutuo, la consulente mi ha detto che l'assicurazione segue il mutuo, è vero, sì, dovrebbe essere così, Emanuele, quindi tra l'altro se le dovessero dire il contrario al momento della stipula del contratto, il nuovo mutuo, se l'assicurazione vecchia non l'ha riaccompagnato in questa nuova strada, ce lo scriva e vedremo di capire dove si è inceppato il meccanismo. Un'altra domanda, Federica, ho saputo che l'ascoltatore ci dice: se si fa l'estinzione anticipata del mutuo si può avere il rimborso del premio, ti risulta? Ma in teoria sì, almeno con le nuove regole ISVAP dovrebbe essere possibile, poiché l'unica cosa forse che mi viene in mente è probabilmente adesso le nuove polizze potranno avere dei premi annuali anziché perché il problema nasceva se tu pagavi tutto all'inizio, cioè, chiaramente il non goduto, giustamente. Invece se leghi magari il prodotto a una polizza che anno per anno si paga, forse sarebbe tutto più razionale, più gestibile, uno cambia. Andiamo da Giacomo dalla provincia di Alessandria. Buongiorno Giacomo. Buongiorno. Ci scusi per averla fatta aspettare, la vedo che è in attesa da un pochino. Eccoci. Niente. Ci dica. Io volevo porre un semplice quesito. Se tutti scrivono come ho fatto anche io. Giacomo, la sentiamo male. Ascolti, guardi, abbiamo pure aspettato inutilmente. Le faccio rifare la telefonata della nostra Gaia e così cerchiamo di ottimizzare un po' il collegamento e la qualità del collegamento. Allora vado da Paolo da Firenze. Buongiorno. Lì, sì. Proprio in procinto di firmare un contratto di mutuo. Esatto, io volevo portare la mia testimonianza e fare una domanda. Ed è proprio questo. Innanzitutto, almeno per quanto riguarda il mio caso, io ho chiesto un mutuo alla mia banca e al momento che è arrivata, mi ha telefonato la banca dicendo che era stata deliberata positivamente, mi sono messo intorno al tavolo per poter decidere la data della stipula e il direttore mi ha tirato fuori la polizza da 4.600 euro. Io che gli ho detto? Stiamo parlando di un mutuo di 90.000 euro. Ho detto: ma siete matti? Cioè io non sono assolutamente, non mi serve pagare un'assicurazione, cioè non lo voglio fare, ho cercato di respingere la richiesta, il che mi è stato detto: guardi, il mutuo si fa solo esclusivamente con questa polizza. Bene, allora a questo punto ho detto: chiamo il mio assicuratore di famiglia e gli chiedo se mi può fare un'offerta in modo tale da vedere di risparmiare il più possibile. Ho detto: no, guardi, o con noi o con nessuno. Noi qui che cosa ci stiamo a fare? Ma cosa volevo? C'è una banca? Cioè, no, guardi, per carità, la polizza va fatta con noi o non si fa. E dopo varie discussioni sono riuscito a ridurre l'importo semplicemente perché mi hanno fatto una polizza soltanto del 50% del periodo, ma è stata una fatica arrivare per cercare di rendere un pochino più umana la cifra. L'altra cosa, ed è questa la domanda, è questa: a quel punto mi hanno chiesto che la polizza va comunque sia non solo fatta con loro e pagata subito, anticipata, mentre io ho chiesto di poterla spalmare nella rata. Come ho sentito la vostra trasmissione, è fattibile questa cosa, è anche logica per la portabilità del futuro. Paolo, si fermi lì. Posso imporre? Tra l'altro lei sarà diventato l'incubo di quel direttore di banca. Allora andiamo a sentire i suggerimenti per chi è in viaggio e poi insomma qui abbiamo messo veramente i casi più problematici, che però sono quelli che hanno originato anche in qualche maniera la decisione di intervenire da parte dell'ISVA, perché poi abbia, come si dice con un brutto termine, cannato la forma del suo intervento, questo è pacifico, lo ha detto il TAR del Lazio. Però questi problemi, dottor Messina dell'ABI, ci sono e adesso su questi vorrei discutere con lei. A tra poco. Allora, dottor Messina dell'ABI, ha sentito il caso dell'ascoltatore di Firenze, no? Che ha dovuto trattare fino all'esasperazione per avere ragione, no? Della sua richiesta, quella intanto di... Poi si può discutere o meno del fatto che la polizza sia necessaria sottoscriverla perché è meglio proteggere la propria famiglia piuttosto che non farlo. Detto questo, mi viene da chiamarlo ricatto, però non so come altro definirlo, perché solo in questa maniera io definisco anche quello che è successo a Rosa, che ci ha scritto: a 10 giorni dal rogito la banca mi dice se non sottoscrive la polizza niente mutuo. Io rispondo ok, rinuncio e chiudo il conto e il mutuo adesso me l'hanno dato. E insomma, queste situazioni diciamo così, nel caso di mutuo, come ci siamo già detti, la polizza scoppio incendio è fondamentale, quindi non si tratta di una facoltà. Benissimo, è qui. Ed è tra l'altro è anche fondamentale che noi culturalmente impariamo a concepire il fatto che quando abbiamo una casa è bene assicurarla. Benissimo, ma è anche giusta l'altra, quella della temporanea caso morte, perché se una persona viene a mancare in un nucleo familiare, magari la prima persona che percepisce il reddito con il quale si paga il mutuo, è chiaro che la banca vuole assicurarsi. Noi su questo non abbiamo nulla da eccepire. No, dottore, ma anche Messina, del cittadino, del cliente, esattamente, essere assicurato. Quello che invece avete rappresentato voi con il caso, per esempio, di Firenze, mi sembra importante sottolinearlo nella sua dinamica. Perché? Perché dice: ho dovuto negoziare duramente con la banca. Bene, è esattamente quello che bisogna fare. Cioè, noi siamo in un contesto che se applichiamo prezzi amministrati non funziona. Allora dobbiamo in qualche modo credere al fatto che siamo in un mercato. Se siamo in un mercato bisogna negoziare. Perché andiamo in una banca sola? Perché non giriamo almeno 3 banche per un prodotto di credito con annessa polizza? Sì, però perché il direttore di banca mi dice che c'è la polizza 10 secondi prima di firmare il rogito, dottore Messina? Io so che noi dobbiamo essere informati, Salvadanaio serve anche a questo e quindi dobbiamo conoscere un po' tutta la dinamica di questo mercato. È corretto, però siccome non tutti sono pronti, attenti, come Paolo da Firenze, come la nostra Federica Pezzatti, un po' meno perché ho fatto di quelle sciocchezze, è questo anche un pochino che contesto io. Ma questo è esattamente infatti l'ambito su cui noi vediamo che si può crescere molto, migliorare molto, insieme all'autorità, insieme all'associazione dei consumatori, facendo quelle attività di trasparenza che possano innalzare la trasparenza, che possano aumentare la consapevolezza del consumatore, ma stiamo parlando del rapporto che c'è fra in un momento importante come quello della stipula di un contratto, tra due soggetti che hanno interessi su cui bisogna fare in modo che le informazioni siano il più possibile chiare a tutti. D'altra parte credo che a tutti noi capita di comprare prodotti elettrodomestici eccetera, è chiaro che la spinta commerciale di chiunque in quel momento può magari occultare certe informazioni. Detto questo, per dare un messaggio conclusivo, anche se ancora abbiamo qualche minuto di tempo, se il nostro direttore di banca ci dice: allora io capisco il ragionamento che lei ha fatto prima sulla filiera commerciale, che rende più conveniente fare una polizza con la banca che magari ci ha dato il mutuo e quindi ci potrebbe concedere delle condizioni migliori, detto questo però da questo a sentirci dire che è un obbligo farla ed è un obbligo sottoscriverla con la banca che ci concede il mutuo, la distanza è enorme. Lei ci conferma È un obbligo, innanzitutto si può dire questo, che è un obbligo in alcuni casi quando sono previsti per legge, come già dicevo. In alcuni casi può essere invece un vincolo che la banca pone alla concessione del credito, e questo è lecito, nel senso che la banca, da questo punto di vista, ha la facoltà di scegliere le proprie politiche creditizie. La polizza è un fattore di mitigazione del rischio di credito. Se il cliente non è soddisfatto di questo e ha tutte le informazioni, quindi la banca deve metterlo nelle condizioni di poter decidere, se ne va altrove, o a richiedere il credito o a cercare la polizza che soddisfa quel tipo di copertura. Di benissimo. Giacomo, l'abbiamo ripescata, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Io volevo, diciamo, una conclusione solo, ecco. Se tutti i mutui sono stati venduti, quasi tutti, sono stati venduti con queste polizze a copertura, io lo trovo un'ottima cosa. Ma perché si sente parlare da anni, migliaia di famiglie non riescono a pagare il mutuo e l'assicurazione non interviene? Cioè, ne conosco diverse persone che hanno perso il posto di lavoro. Esatto, stiamo parlando di questioni diverse, però la temporanea caso morte, furto incendio, scopi incendio, Federica, qui stiamo parlando di polizze diverse. Ci sono diverse polizze, quella di cui parla forse l'ascoltatore è la Credit Protection, però interviene solo su lavoratori dipendenti, chiaramente, qualora perdano il posto di lavoro, e ha una copertura limitata, non si estende per tra l'altro tutto. Non ci sono forse neanche tantissime società che fanno queste polizze, o le fanno tutte regolarmente? Ma Federica, ormai è entrata abbastanza in consuetudine farla, o comunque appoggiarsi da parte delle banche a delle società specializzate. Mi viene in mente ad esempio l'Alico, che adesso insomma la Genworth, anche se mi sembra che la faccia, senza se la conosci, poi la Cardiff. Allora, quindi insomma sono questioni diverse. Sentirei Franco da Trento, perché invece è un'altra situazione, qua c'è insomma una contestazione di natura anagrafica. Franco, esatto, pronto? Pronto, buongiorno, sì. Allora, guardi, io attualmente ho un mutuo, schematicamente, un mutuo a tasso fisso, 5,85 e 15 anni, stipulato 2 anni fa, ne rimangono circa 13, e ho chiesto la rinegoziazione presso la stessa banca per una questione di comodità, per evitare, diciamo, di trovare. E beh, ovvio, tanto la prima prova che si fa è quella, giustamente, no? Esatto, però nel frattempo sto andando anche con l'altra banca, per quanto riguarda il modo per vedere. Praticamente, sì, mi è stato viene tergiversato, eccetera. Allora, mi è stato proposto il tasso variabile con tasso massimo 5,25, attualmente è comprensivo di spread 2,25. Nel momento, quando poi, prima di fare la richiesta, perché poi le banche, quando vengono, si concentrano, diciamo, con banche più grandi, tutto sembra e diventa molto più problematico, e mi è stata richiesta appunto la polizza assicurativa. Però, avendo io 67 anni, tra poco ne compio 68, praticamente non è possibile fare la polizza. Ora, quindi, allora, da una parte questa... obbligatoria per fare il mutuo, dall'altra parte non gliela danno per l'età. Cioè, esatto. Quindi, insomma, ecco. Problema, come risolvibile? Bravo Franco, no, adesso ci facciamo fare un paginone a Federica Pezzati su Plus 24. Forse una polizza a quell'età sarebbe comunque abbastanza costosa, cioè penso rispetto, cioè dover fare una polizza per coprire la insomma, quando si ha un'età anagrafica abbastanza rilevante, non so se convenga, se è finalizzata solo alla copertura del mutuo. No, però il tema è che è un controsenso, con la banca dovrebbe essere consapevole dell'età di questa persona, esatto. Che cosa gli vai a chiedere una cosa che lui non ti può dare, perché gli contesti l'età? Se ha già erogato un mutuo, cioè se è già stato erogato un mutuo che ha lui come intestatario, non vedo dove stia il problema. Senti, vado dal dottor Messina, che ne pensa, dottor Messina? Ha sbagliato le due banche alle quali si è rivolto, magari tra i due litiganti, il terzo gode, andando ad un terzo sportello, forse potrebbero accontentarlo? È davvero, secondo lei, così difficile per questa età? Quello è sempre consigliabile, però forse non ho capito se mi è sfuggito a me o non è stato detto, non ho capito se la rinegoziazione è stata impostata per allungare la durata del mutuo. No, per abbassare solo il tasso, perché lui paga un 5,85 di fisso, ovviamente adesso i tassi sono molto più convenienti. Quindi lasciando la stessa durata. Sì, Franco, lei vuole mantenere la stessa durata, giusto? Sì, avevo chiesto anche di ridurla. Certo. Addirittura, si figuri un po'. Certo. Dottor Messina. Sì, allora è atipico che la banca che ha già erogato in una modalità oggi chieda un'altra polizza, insomma. Ma infatti addirittura, vabbè. Franco, ce lo scriva un po' questo caso, perché interpelliamo un po' dei nostri consulenti, magari l'ABI ci riflette un po' di più, poi magari poniamo anche questo caso all'attenzione di Plus, chiamiamo l'ISVAP e vediamo un po' che succede, anzi sentiremo anche la compagnia di assicurazione magari per capire che tipo di intenzioni ha. Giuseppe da Vicenza, rapidissimo perché stiamo chiudendo. Sì, solamente io volevo portare la mia esperienza personale. Io ho chiesto un mutuo un paio di anni fa per l'acquisto della prima casa e siccome mi fido veramente poco delle banche, ho chiesto di leggere e di avere un contatto con il direttore un bel mese prima, ovvero alla delibera del mutuo. Nel momento in cui è stato deliberato il mutuo, ho scoperto che c'era questa polizza e anche io ho fatto presente che io non avevo nessuna intenzione di sottoscriverla. Di sottoscriverla con loro? Di sottoscriverla con loro perché era veramente molto cara. E mi sono rivolto ovviamente al mio assicuratore personale che è da anni che mi segue. Com'è finita, Giuseppe, che devo salutarla? È finita che ho dato l'out out e mi hanno concesso il mutuo senza la polizza. Però lei l'ha fatta con l'altro canale, con l'altra società, ah, col certo, assicuratore. L'ho fatto con un quanto ha risparmiato, Giuseppe? È una buona metà. Ecco qua. Il tema è, insomma, stressiamo il direttore, dottor Messina. 10 secondi li concedo a lei per concludere. Sì, sì, è importantissimo guardarsi intorno, avere tutte le informazioni. Noi attiveremo tutte le iniziative possibili per aumentare il livello di consapevolezza su questi prodotti che, come dire, sono necessari perché aiutano il cliente, aiutano la banca e proteggono il credito senza interventi pubblici. Benissimo. Alessandro Messina dell'ABI, la ringrazio. Grazie a Federica Pezzatti per essere stata con noi. Torniamo presto con te per parlare del famoso regolamento 35 dell'ISVAP. Grazie a Gaia Romani, a Carmelo Lauricelli in assistenza tecnica. Salva Danaio torna domani. Buona giornata.